tak. Tik tak, tik tak. Tik tak, tik tak. Tik tak, tik tak. Il tempo passa. L'orologio continua il suo giro, lento, molto lento, lento come un respiro, come il passo di un vecchio, con l'ombra che ogni tanto ha un sospiro. Tic tac, tic tac, tic tac, tic tac, tic tac, tic tac, tic tac, tic tac, tic tac. Tic tac, tic tac, tic tac. La vita continua con il sole che penetra le ossa. Tic tac, sibilo di un aereo. Ogni tanto viene scava una fossa. Tic tac, la vita continua. La gente esce e fa la spesa. Neanche i cani si fedono di sabato. La città per tutti è già chiusa. Tic tac, tic tac, tic tac. Tic tac, tic tac, tic tac. Tic tac, tic tac, tic tac. Tic tac, tic tac, tic tac. Il tempo passa. L'orologio continua il suo giro. Tic-tac. Lento, molto lento. Come il sonno di un bambino, tic-tac. Come un singhiozzo nervoso che spacca il silenzio del mattino. Un litigio, un dolore, o un domani sempre più vicino. Tic-tac, alle 13, una bomba, e in 15 sono morti. Tic-tac, alle 16, un pugno arriva in terra e in 200 sono morti. Tic-tac, le 17, e 20 mostri arrestati in Giordania. Tic-tac, sono le 18. Tic-tac, sono le 18. I fedain distruggono molti carri armati. Tic-tac, sono le 18. Dei terroristi attaccano dei mezzi corazzati. Tic-tac, sono le 18. Il tempo passa. L'orologio continua il suo giro. Lento, molto lento. Lento proprio come un respiro. Lento, molto lento. Lento come un respiro. Tic tac, tic tac, tic tac. Tic tac, tic tac, tic tac. Tic tac, tic tac, tic tac. Tic tac, tic tac, tic tac. Tic tac.